una canna verde lunga lunga, verde in testa come un Oompa Loompa. Rockstar Tony Stark, voglio un Gundam, mungere il conto come una mucca con la tuta Puma. Tutta tutta, ho fatto una canna, ce l'ho messa tutta tutta, gonfio come Buddha, sembro Guda Guda. Lei sta messa bene dura dura, fuma fuma, mi stacca la testa Uma Thurman. Questa city batte forte come il cuore, le sue strade, le arterie, i soldi, il motore. Perciò faccio il piano con ogni colore, fino a quando c'ho un infarto mi scatto contro l'abbione. Se ti senti bello sul cielo, l'uccello, il suo culo tutto marmo, no c'è lui, quando balla resta fermo. Sembra ferro, sto scrivendo il Nuovo Testamento. Resta attento, voglio fare ancora money money, Franzo Paperone. Nuotare nell'oro come Franzo Paperone. Scrivo solo sesso d'orrore, il Decamerone. Prendimi il boccaccio, intendo il barattolo dell'erbone. Sto pensando a fare i soldi, soldi, noi veniamo a fare i soldi, soldi, noi vogliamo fare i soldi, soldi. Siamo dentro per i soldi, soldi, mo, mollami, voglio yen, euro, dollari, residenti, porti, portali, non importa chi, voglio tutta questa torta qui, monami. Frate, spacco c'ero da quando non c'era un cazzo, e qua con me non c'eri tu che non hai fatto un cazzo, frate, hai fatto zero. Entro sopra il palco con il pacco pieno, chiudo una canna, sembra un ciccione dentro un sacco a pelo. Fammi chiudere le rime, supero le mine, la quarta in manica, nelle mani ho le tre regine. Lascio i buchi come l'MD nelle feste alle reverine, ho la coca nelle teste delle veline. Ricco quasi, chiuso dentro casa tipo Basi, sto cadendo a pezzi Enrico Papi. Dai, che cazzo pensi che venivo gratis? Piovono numeri verdi tipo Matrix limpidi, giù per i sentieri ripidi. Sembri pazzo se ci imiti, non fa un cazzo come CBD. Quindi non mi parlare di suonare meglio, quando i vent'anni non hai lasciato il segno. MGM o GMM, tu brucia quaderni e penne, perché tanto stiamo arrivando a levarti tutti quanti i soldi. Soldi, noi veniamo a fare i soldi, soldi, noi vogliamo fare i soldi, soldi, siamo dentro per i soldi, soldi, mollami, voglio yen, euro, dollari, residenti, porti, portali, non importa chi, voglio tutta questa torta qui, monami.